ancora fuori, né primo né l'ultimo, ma penso strano. Più mi allontano qui mi seguono, qui vogliono fottere lo stronzo sbagliato. Il mio alter ego incanta. Mi meraviglio anch'io di quante volte l'ho fatta franca. Da solo in branco, le notti in bianco, le volte che pensavo meglio farla franca che a franco. E arranco, ancora non ci credevo, finché in quest'odio l'ho impiattata anch'io e non vedevo nessun mandorlo, due amici a fianco, nessun grillo in testa, dalla prima riga, dalla prima media, perché sempre prima c'è stata la figa. Quanti soldi buttati, mi insegno mio nonno nella prova di goderseli in piene, che la vita è una puttana e vola, di non volerne sempre, che finisci per arrotolarli come con la droga. Pazzo, ricordo ora perché le ho distanziate, fanno le mancipate, poi vogliono il ragazzo principe che le tratta male, nelle palle piene di ste puttanelle, di ste puttanate. Cazzoni, manco la maturità, si credono più gradi dei grandi, sono appena entrati nella pubertà, non c'è felicità, io dico ce ne sta, ma non la sai toccare, se non mi credi, chiedi la durrasta, man. Cresciuto con Nas, con me Pinocchio, Bouchard, te cresce un as, non consiglio per tutti sti film, nell'assol, te porta a spas, sai che mongol, che c'ha spassam, con chi lo scem, manco si ci scassa capa, porto scass, divento buono, non ho già fatto una cosa vagante, mo, ne, lo, sanno come mamma chiama. Sa e ne ando cora, nata regione, R.A.P. e core, la mia guarigione, zero bugie, campioni, sbaglio, essere svegli di sti tempi è un'arma a doppio taglio. E ne ando cora, nata regione, R.A.P. e core, la mia guarigione, zero bugie, campioni, sbaglio, essere svegli di sti tempi è un'arma a doppio taglio, taglio. Diamo più a chi merita, che abbia una mimetica, che sia un poeta con la sua chimera, chiuso in una stanza ermetica. Un eroe nome ne pittrice, disegna una balena, nessuno comprerà quel quadro, pensa alla sua spesa. Amore, continua a baciarmi, non è il soldo che mi rende ricco, sono questi sguardi. Amo la compagnia come la solitudine, uno nasce solo e solo muore, non contare su nessuno. Solo le tue forze sapranno superare dipendenze, le tue paure, relax, noraia. Nella bianca cerchi calore, le corri dietro, unisex come cani con i calori. Arezzo City fa cater, tutto live, se sai cercare siti, che me la sucate, partono per il cuore. Ma sta città è il mio cuore, mentalità la forza, Mastiff, hardcore. Troppo carina sta ragazza, vuole andare in stanza, attimi indimenticabili, pensieri e musi, ispiratrici inimmaginabili, oltre all'ammiratrici, l'ebbrezza del se non è singolo del conoscenza. Con l'esperienza capirai che tutti sti sentimenti che provavi prima non li sentirai mai più senza la sua presenza. Per questo fratello la droga ammazza. Tutti sti fogli non potranno mai spiegarti gli attimi da fatti, gli attimi per farsi e lunghi momenti per rimettere insieme le parti di quanti sorrisi falsi solo perché c'era lei. E se ci fosse ora non sarebbe lei, la bacio lei piuttosto che dire sì. Fottuta MD, 2G, la mia droga è questa fottuta LP. Sa. E ne ando cora, nata regione, R.A.P. e core, la mia guarigione, zero bugie, campione, sbaglio, essere svegli di sti tempi è un'arma a doppio taglio. E ne ando cora, nata regione, R.A.P. e core, la mia guarigione, zero bugie, campione, sbaglio, essere svegli di sti tempi è un'arma a doppio taglio.